Ma dai. Nicolino Silvestri, un reputato tappezziere di Belluno, onesto padre di famiglia, ha perso la testa per il fatale sorriso di una pensionante della casa di piacere di Mezzaterra ed è fuggito con lei in Svizzera, abbandonando moglie e figlioletti. Dalla santa, ha fatto ritorno meno di un anno dopo profondamente pentito, in quanto la sua compagna di libertinaggio sembra abbia trovato da accasarsi convenientemente con un albergatore del Canton Ticino. Stregato da un sorriso.